È un po' cracchiante. Le meraviglie della diretta. Cosa è monofonico, arriva solo su un canale, però. Io lo sento in entrambi. Allora... Può essere la tua cuffia. No, io lo sento. Ah, beh, allora anche sa, la mia. Sa. Si, qua, sa, là, di là. Yeah, non ho neanche niente per fare del casino. Bene, allora 333-180-94-94 per dirci in quanti siamo in studio stasera. Chi vince una copia di Obsolete Sheet numero 25 e magari una breve lettura da questa opera seconda, giusto? Dico sì, bene. Seconda dall'opera opera. Seconda del maestro Riccardo Lolli, Non aprite, è un virus, che è appunto la pubblicazione a cui è dedicata la 162esima puntata di Coxo Spaziale. Spaventosissima. Io vi ringrazio per avermi chiamato. Noi ti ringraziamo per esserci dato. Quindi grazie, sciolta alla fine. Alla fine, grazie. Non volevo dire il finale, ma aspettavo se l'avesse detto qualcun altro, ma potremmo anche soprassedere. Potremmo soprassedere, non lo so, chiedi un po' lì in giro, lì con tutti i tuoi aiutanti, se qualcuno vuole continuare la frase. No, allora, sembra, no, non la conoscono, se no, non conoscono il detto. Molto bene. Beh, comunque qua la situazione è meravigliosa. Abbiamo due sul pezzo sul microfono, uno che ascolta, ridacchia e si mette un pochino così, esatto, e mi guarda un po' strano. Un'altra giovin fanciulla che fa i compiti e qualcuno che alle nostre spalle potrebbe fare anche il Lego. Potrebbe anche fare il Lego, che però un po' li ha lasciati fuori, un po' li hai portati dentro. Non l'hai portato. E in tutto questo, okay, io e te cosa ci facciamo, Stefano? Andiamo a casa? Non lo so, io stavo facendo le foto, infatti si sente. Ecco. Quando faccio così si sente. Io invece mi sfoglio il libro. Il bello della diretta mi radiofonica è di tenere tutti i cellulari accesi, sì, con tutti al massimo volume, perché così se per caso fuga per dire non riesce a entrare, magari... A entrare no. Dove? Entrare dalla finestra, no? Lo sai che lui è uno scassinatore professionale. Ah, non lo sapevo mica che avesse cominciato. Comunque, saluti a Fughellino. Approfittiamo per mandare i nostri baci a Raio e alla Susi, che ci stanno ascoltando. Ah, come sì, lo sai baci, che Raio ci ascolta? Lui ci ascolta sempre. Ah, ok. Ma non ha più mandato messaggini, però. Io non ho capito, qualunque microfono tu usi, sei sempre a palla. Posso abbassarti un attimo? Ma come vuoi? No, grazie, perché mi stai spaccando le orecchie. Bene, dunque a questo punto, cioè, bisogna, cosa facciamo? Un bel gran pezzo dal vivo subito, così che senti? No, sì, volendo, sì. No, volevo dire questo, volevo descrivere un attimo il libro per arrivare poi al fatto che ci siano anche i testi delle canzoni dentro questo libro. Addirittura. Che poi io, sai, libro è una parola grossa, cioè è un libro perché ha la consistenza di un libro, però. Ma insomma, sono ben 102 pagine, eh? Sì, ho ridotto rispetto al precedente, erano 160, ah, no? Okay. Però ho fatto uno scherzetto, ho ridotto il font piano piano, finché alla fine, vedi, nelle ultime pagine c'è un font piccolissimo. È verissimo, e si mette in dubbio la capacità, il visus del lettore, infatti c'è una nota che dice: gentile lettore, non sei tu aver sofferto di un sensibile calo di visus dall'inizio al termine della lettura, ma è l'autore che ha ridotto gradualmente la dimensione del font. Poi c'è questa foto, Lolli stronzo. Sì, perché ci sono anche le immagini. Che fa riferimento. Sì, ci sono delle immagini così un po' casuali. C'è un disegno di Bonazzi che ha ripreso il profilo di Bob Dylan di Milton Glaser, tanto così per... Ma Bonazzi come, è quello delle modestia. Pere, è quello delle, sì, pere, esatto, di Sarno. Esatto. Poi c'è una riproduzione in bianco e nero del quadro di Pasquini, che è molto strana questa cosa. Neanche in scala di grigio, proprio bianco e nero. Ah, fantastico. Eccolo, l'ho trovato a pagina 82. Ah, esatto, wow, sì. UP 1301. Sì. Poi ci sono, sì, un po' di immagini così, dei titoli di canzoni, ci sono quasi tutti i testi, se non tutti, del mio disco di un paio d'anni fa, fuori catalogo, di cui abbiamo ascoltato anche un'anteprima prima. Sì, esatto, Fatemi scendere. Se ne è accorto Giulio, che era di là, di: ma come, stanno trasmettendo la tua canzone? Beh, almeno tuo figlio l'ha riconosciuta. E poi ci sono anche dei testi nuovi che nessuno ha ancora mai sentito, come ad esempio un pezzo che potrei fare, ecco, dai, un bel inedito, un inedito enigmistico, uno speciale per il Coxo, che ho composto espressamente per una serata enigmistica che abbiamo fatto quest'estate vicino a Cesena. La canzone si chiama Bifronte sillabico. Io sento proprio mono aurale da una parte, però, e sono collegato alla radio, però è lo stesso, eh. Sei collegato alla radio? radio, non alla... La serie è fiducia. Ho giusto timore di luoghi remoti. Non c'era la mia voce nella prima parte, era così? La ricomincio? Ma sì, non lo so. Facciamo una cosa, guarda, mi metto in audio in diretta. Così è più... Sì, mi si sente, adesso io mi sento. Direi che ci siamo adesso. Steso nell'auto durante le soste, penso alle strade che curvano a destra, a meno scalo di Loscano Mea. L'operaio cinico ci appoggia dei conici, ma dove son stato la vita è più tosta. Non posso più stare, il ricordo non resta. Sbagliar coordinata è tana di orco, ho giusto timore di luoghi remoti. Bifronte sillabico, da solo lo so. Bifronte sillabico, un nodo donò. Bifronte sillabico, un coro rocco. Bifronte sillabico, soci in inciso. Ma come ti vesti dentro le stive? Non fare dei gesti, sei già nello stige. Mercati animosi se fai simonia. Con questa canicola ti vedo laconica. Gli abili amici son rimasti in Libia. Gli abiti antichi son corti di tibia. Sentivi sapori, or la lingua riposa. Eri regale, ora sei da legare. Bifronte sillabico, da solo lo so. Bifronte sillabico, un nodo donò. Bifronte sillabico, un coro rocco. Bifronte sillabico, soci in inciso. Con un passo d'oca finisce che cado, già prese dei granchi chi grande se pregia. Tu non mi ricusi, ne siamo sicuri, non sono nocivo, ma le voci no. Bifronte sillabico, da solo lo so. Bifronte sillabico, un nodo donò. Bifronte sillabico, un coro rocco. Bifronte sillabico, soci in inciso. Genius syllabic. Bravo, bravo! Meraviglioso! Nonostante, nonostante i miei tranelli tecnici alla regia. Ma, e quindi questo è un'anteprima che forse andrà a... Andrà probabilmente nel prossimo disco, una versione live al St. Paul Cathedral di Londra, che non è vero però. però la metto nel... Suona benissimo. Che si può trovare in Non aprite un virus. Il testo, sì. Meraviglia. La musica ancora no, nel libro ci vorrebbe una cartolina musicale, delle cose un po' complicate. Effettivamente potrebbe essere l'evoluzione, una raccolta di cartoline musicali. Ma mi hanno detto che il libro è dedicato a Daniela Airoldi, è corretto? Volendo sì, posso, se, bene, se allora, ne do una copia gli farò una dedica. Allora ditemi chi è e perché. No, io in realtà è tanto tempo che non ci vediamo con Daniele Airoldi. È un'attrice tanto cara a Fellini. Sì, è un'attrice di spessore, ha partecipato a, se non ricordo male, La voce della luna. Mi è venuta in mente oggi perché domani non fanno non so quale programma per fare Lo zecchino d'oro, allora ho detto ma chissà come sta l'Airoldi. Ne approfitto per salutarla, tanto perché ci ascolta tutte le... No, ma ci ascolterà proprio che ci ascolti, perché io ho pubblicizzato l'evento sulla mia pagina Facebook, lei mi segue, insomma. Chi è che ti segue oltre alla Daniela Airoldi? Beh, c'è Harald Bertusi, che saluto, c'è Silvana Conversano. Harald Bertusi è un anagramma? non so cosa dire. Mi hai colto. Cogliere così in fallo. No, non in fallo, in senza risposta Lolli è una cosa rara, eh? È una cosa rara, devo dire. Anche perché mi sono, dopo aver cantato, sempre un po' di iperventilazione, allora mi rimango un po' così interdetto. Bene, allora, a proposito, 333-180-94-94, il nostro WhatsApp dice che bisogna effettuare un backup. Questo era il messaggio arrivato. Ah, ecco, fantastico. Io invece il mio WhatsApp personale, che si chiama Fuga per Art, è chiamato anche Giffo da Vicenza, dice: mandami subito una foto di Fedra, buttala fuori dalla regia, Masotti merda, siete tre beep più una beep gnocca. Che senti te. Bene, comunque grazie. WhatsApp ha capito subito, siccome il libro si chiama Non aprite un virus, ha chiesto subito di fare un backup, dice state attenti. Vedi? Esatto. Cioè, meraviglia, cioè, io ho messo anche un jingle applauso nel caso tu volessi. Vai, metti gli applausi. No, dalla prossima battuta tocca. Mm-hmm. Sono qua, pronto. Vai pronto. Gli applausi. No, la prossima la rifacciamo. Sì. Vabbè, adesso lo clicco, no, io. Sono quei titoli comunque, insomma. Come il disco, il mio album si chiamava Fuori catalogo, questo libro si chiama Non aprite un virus, sono quei titoli che fanno vincenti come marketing. Molto vincenti. Ecco. Cioè, sono lunghissimi questi applausi. Ma perché poi vanno sfumati. Ah, ok. Scusa, io non sono abituato al... Senti, al tuo stile, ma di regia. Proponiamo una che non parte, vedi, perché lo clicchi e non parte, però... Vaga scaletta. Una vaga scaletta. La 162esima puntata di Coxo Spaziale, interamente dedicata a Lolli, con uno studio pienissimo di Lolli e Pasquini, e... hai dedicata questo libro? Non abbiamo ancora sentito le voci di nessun altro. Giulio, di qualcosa. Magari dici di cosa parlerà questa puntata. Sicuramente del libro di mio padre. Sei orgoglioso di tuo padre che scrive tutti questi libri? O te ne vergogni? Preferisci le canzoni? Ma io sì, preferisco le canzoni. Secondo me, cioè, io non ho letto ancora un libro, però a me piacciono più le canzoni. Cioè, sentire una canzone mi piace molto. Ma tu hai visto il tuo papà quando lavorava alla produzione letteraria? In realtà no. No, di nascosto. Perché effettivamente tu ti chiudi nel tuo studiolo, i figli di tanto si infiltrano, forse anche l'altro qualche volta. Sì, ma poi ho assemblato delle cose già esistenti che avevo scritto, magari ci sono delle cose, il libro inizia con delle cose che avevo scritto sul diario di scuola 30 anni fa. Ah, quindi forse Galeotto è anche il Pasquini con la mostra dei diari delle medie. Sì, mi ha un po' mi ha fatto tirare fuori il diario. È tutta colpa di Cerati. I concetti alla prova, dove parla del panino centripeto, che è il panino diretto verso il centro, cioè lo stomaco, che è opposto al panino centrifugo, che si dirige verso l'esterno ed è tangente all'esofago. Questo qui è una roba che avevo. Meraviglia, vai di applausi. Andiamo di applausi. Ma poi volevo anche girare molto bene. Volevo rifare la domanda a Francesco, qui di fianco. Francesco, ciao, ma senti, tu sei orgoglioso di tuo padre o te ne vergogni un po' quando fa queste cose? Orgoglioso. Ah sì, sei orgoglioso, fantastico. No, avevo capito vergognoso. Anch'io avevo capito un po' vergognoso, invece orgoglioso, fantastico. Grazie. Adesso invece rigiro la domanda anche a Yumi, chiedendole: ma tu sei orgogliosa di tuo padre quando fa queste cose o te ne vergogni? Che non è Lolli tuo padre. Esatto. Sì, quello che vuoi. Lasciami fare i compiti. Che operazione stai facendo, visto che non ti vedo? Le divisioni con le frazioni. Sono difficili? No, fantastico. Bene, sta crescendo bene questa. Ma sì, con i Lego invece qua dietro vogliamo un commento. Come si procede qua con i Lego? Bene. Tutto bene? Sì. Sembra un Lego aerodinamico da volo o insomma qualcosa che si muove. Sì, è una barca. Adesso è una barca che sta affondando. Ma adesso la recupera prima di entrare sottomarino. Adesso fotografo anche quella, così nel caso qualcuno fosse curioso, domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverà non le foto dei nostri bambini, perché noi le oscuriamo, però le foto dei Lego dei nostri bambini. Ma ritornando a noi, perché qua il tempo fugge, tiranno, e le puntate del Coxo finiscono sempre troppo presto, almeno per noi che le facciamo. E cosa ci puoi dire di questo libro? Come, quindi, nasce come raccolta? Si collega al precedente? No, non si collega al precedente, perché cioè in un certo senso è una costaglia anche il precedente, ma è come... Il precedente era, come dire, sono arrivato a 40 anni, adesso vi faccio vedere tutte le cagate che ho fatto fino adesso, le metto qui. Le coxate. Tutte gratis. Invece l'unica qui... cosa che ho scritto in vita mia sono gli inviti al matrimonio di me e Fedra. Cosa? Ripete? Nell'altra lingua, per favore. In inglese? I was the only thing I've written in my life the invitations to the marriage of me and Fedra. È una citazione dal tuo libro? No, è una citazione da un messaggio di Fuga per Arte. Fuga per Arte, naturalmente. Ma le ha già scritte, ma che bravo. Comunque, tornando a noi. Qui gli ho dato una forma, una raccolta di testi, di cose, qui ho dato una forma narrativa, no? ma non evidente, non so come dire. Cioè, il tema è questo. Aspetta, c'è un virus che ha decimato l'umanità, e queste sono alcune testimonianze. Dell'umanità che fu prima del virus. Del virus che si sta diffondendo e sta annientando, sta l'umanità, come i neuroni. The Walking Dead. E in effetti, alla fine del libro c'è tutta una cronistoria in diretta di quello che sta succedendo, del virus che comincia a attecchire. Da prima tra coloro i quali litigavano su Facebook, chi postava la foto di una grigliata si sentiva male dopo poche ore, e nel giro di due giorni si bannava da solo. Ed è quello, cioè, in effetti sembra fantascienza, ma in effetti è quello che sta succedendo adesso. Cioè, e quindi... l'annientamento delle menti, della mente umana su Facebook, ecco. Ma io ho una domanda tecnica: l'hai impaginato con Word? L'ho impaginato con Word. Sì. Ma che bravo! Cioè, che cura! No, infatti, devo dire che ormai è spaventoso, però ti sei dimenticato di menzionare il fotografo della copertina. Sì, non mi sbaglio. C'è alla fine, c'è. C'è, sì, alla, sì, fine, sì, prima della Rocchetta Massarsi. Ah, prima della Rocchetta Massarsi, hai ragione. Foto di copertina. Per chi l'ha visto e per chi non c'era, per quel giorno lì inseguiva una cameriera. Speck e rucola. Hey, rucola. Correre non no, non è spec, attenzione, perché non è spec. Ah, speak rucola. Quindi, mamma mia, no, che arguzia. Ma Lolly, dove si trova sto libro? Per il momento si trova sul mio libro.it, bisogna ordinarlo. Siete troppo profondi. Io consiglio di ordinarne, non so, tre copie almeno per regalarle a qualcuno. Sì, che poi siamo sotto mettetevi Natale. D'accordo in tre o quattro per ottimizzare le spese di spedizione, perché purtroppo c'è questo problema qui. Sono in attesa delle copie cartacee in grande quantità che poi distribuirò anche nelle durante serate, i tuoi concerti. Durante i miei concerti. Come va su quel fronte? Beh, insomma, un paio di cose in progetto ci sono. C'è la serata del 19 dicembre, che da qui è un po' scomoda, però interessante, a Cesenatico con Farnedico. Noi la menzioniamo quantomeno. Certo. Lunedì 19. E poi a marzo, dopo magari ne riparleremo più avanti, ma il 18 marzo sono a Zola Predosa. Lì mi porti, vero Pasquini? Mi toccherà di portarti. E di solito costano un casino i concerti. Come? No, 10 euro. Ah, fantastico, ce la possiamo fare. 10 euro. Comincio a mettere da parte. Comincio a metterli da parte. Ma a questo punto siamo a un momento un po' cruciale. Un po' cruciale. 21:25 abbiamo 25. Il Lolly musicale. Sì. Sia in file MP3 che dal vivo. Abbiamo il Lolly letterario, abbiamo i Lolly eredi e abbiamo anche i due minuti di Lolly. Cosa facciamo? Li possiamo se li saltiamo guadagno Lolly una settimana. Visto che sono qua, no? Così. Ah, no, giusto, allora so. Magari possiamo saltare, potremmo fare il l'ora di Lolly. Esatto, come stiamo peraltro già facendo. Allora mettiamo solo la sigla, così fingiamo. Ma cos'è sto sfondo, scusa? È la musica sottofondo. Mi sembra un'ottima idea. Vabbè, me ne è sfuggita una. Senti chi parla, che fai delle compilation di sottofondo che sono tutte cantate. Me ne è sfuggita una. di Nanni hanno una durata percepita variabile. Ecco, finito. Ecco, vai. Tra l'altro, in questi due minuti leggevo una parte, un pezzo del libro, per cui è proprio ridondante. È meta radio questa, è meta lolly. Ah, questo non è of large lolly. Of large lolly. Sarebbe dei gran lolly. Of large lolly. Cioè un largo lolly. è abbastanza spaventoso, però. Of large lolly. Lo sentiamo di nuovo. È finita la musica di sottofondo? Ah no. Adesso siamo alle Hawaii. Adesso ci fai due minuti dei lolly dal vivo. Sì, allora, l'uomo e il mare. Vuoi la sottofondo musicale? Preferisci il silenzio? Sì, il sottofondo va bene. Okay. Anche ci silenziamo noi. Anche quello di prima. Attenzione, contiene come si chiama? Parental contenuti coccici. Chiudete le orecchie, bambini. Ma neanche tanto. Via le cuffie. Il mare è vita, la vastità. Come possiamo vivere senza mare, noi che andavamo a fumare in sala giochi nel seminterrato del Bar Pineta? Il nostro mare italico, il nostro mare l'Adriatico granitico ed il Tirreno anche un po' meno. Ottenere le agognate ferie per scaraventarsi sulla 14 ascoltando all'improvviso il duetto Fedez Gianna Nannini su Isoradio, che è poi così che succedono gli incidenti, maledicendo per l'eternità quelli che stanno in mezzo, poi stando in mezzo, poi essendo sfanalati dai tir che spostano bancali di tortellini industriali e pesti senz'aglio attraverso le province della nostra bella Italia, ed infine mentre si tenta il sorpasso di un tir che tenta il sorpasso, essendo sfanalati da meravigliose Audi che per fanali hanno gli occhi del demonio, finché non ci si ferma tutti in coda nei pressi di Faenza dandosi appuntamento all'altezza della Puzza. Il mare, la vastità, la brezza fresca ma solo a settembre, la Romea, i tir, i canneti, i milanesi che ti pestano i piedi al bar per passarti davanti e prendere una brioche di merda, la spiaggia, gli stabilimenti, la musica di merda, gli animatori, i tornei, il caldo secco, i piedi secchi, l'acqua solo naturale fuori frigo, il cocco bello che non si deglutisce mai, le cicche tra la sabbia, i bastoncini dei ghiaccioli, le cicles, gli inserimenti ai fini commerciali degli ambulanti con gli accendini a forma di cesso, la vastità delle voragini scavate dai bambini, le folate di sabbia gettate in faccia dai bambini, i genitori dei bambini, i gelati dolzaroni, prima causa di sete nell'Occidente, sulla pelle i patacconi di troiaia, protezione solare anche all'ombra, l'ombra che continua a spostarsi imprendibile sui lettini chiodati, si consiglia di stare a casa durante le ore più calde, lo spritz, il mojito, le patatine, la grappa del duce, la vastità, le docce, le zanzare che arrivano puntuali alle 20:45, si vedono arrivare all'orizzonte del swarm, sulla pelle i patacconi di troiaia antizanzare che non servono ad evitare i gonfiori bubbonici, il mare, le mille pizzerie, le mille rosticcerie, i mille ristoranti di pesce, i mille centri commerciali quando piove, i lungometraggi del cazzo nelle multisale, i piano bar con i soci di Renato Zero, la disco nel high quality club, gli spritz e i mojitos nella vastità dei suoi open spaces, l'acqua solo naturale fuori frigo, i materassi transeunti che provocano disallineamento delle costole, la vastità dello spessore dei cuscini di spessore intrisi del tuo sudore, ed ogni mattina alle 5 un nuovo risveglio grazie ai giovani di tendenza che vomitano passando in moto e dal camion della raccolta vetro. Quando chiami il call center della tua situazione 531-530366. Cox spaziale. Del Gran Lolly alla 162esima puntata di Cox Spaziale. Siamo sempre qui in direttissima, pieni di lolly e di pasquini. Siamo pienissimi di lolly e di pasquini. E nonostante questa pienezza, questa grandezza lollesca e pasquinica, ci sono anche oggi loro. No, come no? Sì, ah, sì. Sono. E non abbiamo cliccate, clicchiamole. Però, clicchiamole. L'angolo della menzione. Di Gran Lolly. E a questo punto, ragazzi, ce l'avete lì da vedere, da leggere le cose? Delle menzioni? No. Cioè, no, bisogna. Ok, allora intanto vado avanti io con la prima. Vado io, lo faccio da testa di ponte. Dopo questa. Fai da testa di di ponte. Testa di coxo? Dai. Ah, che coxone che sei. Allora, sabato 10, ovvero domani, alle ore 21, Fole da Osteria. Leggo bene, Pasquo? Leggi benissimo. Teatro comunale, il Teatro Comunale di San Giovanni di Persiceto. Il Teatro dell'Orsa presenta uno spettacolo divertente e poetico costruito sui testi di Cesare Zavattini, Giuseppe Pederiali e Giovanni Guareschi. Fole da Osteria. Proprio quelle. Mm. L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, niente po' di meno, nell'ambito del progetto Il Teatro dei Libri. E per non farci mancare nulla, abbiamo Monica Morini del Teatro dell'Orsa che ci racconta qualcosa di più di questo spettacolo. Ci sei, Monica? Ci sono, buonasera a tutti. Benvenuta al Coxo, grazie per essere con noi. Tu sei una delle fondatrici del Teatro dell'Orsa, dico bene? Sì, esattamente. E domani in scena con me c'è Bernardino Bonzani, Claudia Catellani, anche loro parte del Teatro dell'Orsa. Bernardino è nostro autore di solito dei testi con me, ma anche regista. Claudia è al pianoforte dal vivo e da molti anni i lavori che facciamo sono accompagnati dalla musica dal vivo. A volte ci sono gli archi, a volte c'è un organetto, a volte c'è un pianoforte. Questa volta le note del pianoforte ci trascineranno dentro le storie di Guareschi, di Zavattini, Pederiali. Ma dimmi un po', perché io non sono della zona, vengo da un'altra regione. Fole, cosa vuol dire fole da Osteria? Sono racconti, no? Le fole sono veramente le storie, ma le storie che Google Translate. Cosa? Google Translate l'ha tradotto come tales in inglese. Ah, quindi non è, tales, è italiano, racconto. Sono io che sono ignorante. Benissimo. Succede così. Vabbè, però è un italiano un po' desueto, se non sbaglio. Ma un po' certo desueto, che se non ti crea un documento, ogni tanto si parla così. Se non mi crea commento. No commento. Ecco. Allora, mentre disquisiamo sull'origine delle fole, sì? fare fole, fare filosse ha un'origine antica. Il fare filosse è quello veramente di tessere il filo delle storie, no? Si faceva filosse in queste notti, le notti di nebbia, si faceva filosse dentro le stalle, nei cortili d'estate, si faceva filosse per perdere il tempo oppure ritrovarlo, perché si sa che le storie allungano la vita. Spesso le fole erano in bocca alle donne e quindi erano loro che tessevano le storie. In questo caso invece sono autori maschili, ma c'è uno sguardo bello, riconciliato sul mondo, lo sguardo un po' emiliano. Gli emiliani riescono a guardare alla terra e riescono a vedere l'invisibile, cioè pensa ai romagnoli cosa possono fare. E quello è un po' di romagnoli ce li abbiamo, è un po' di Tonino Guerra. Domani sera farà capolino, qualche verso di Tonino Guerra appare nello spettacolo. Ah, quindi ci sono anche altri autori poi nel corso della serata. Però la deprecata nebbia, no? Che oggi abbiamo visto molto bene. La vediamo molto bene, no? Cioè quanto è pericolosa per la strada e per i poveri autisti, tanto è feconda di immagini, no? Dalla nebbia può uscire di tutto. Io per alcuni anni non ho abitato in Italia ma negli Stati Uniti e assurdamente mi mancava la nebbia. Mi mancava la nebbia perché quel bel mantello denso che ti separa dal mondo ma ti rende tutto possibile, tutto può sbucare dalla nebbia. Infatti Pederiali fa uscire fuori di tutto dalla nebbia. Io concordo. No, io per un cazzo, io sono stato a New York 2 anni e mezzo e devo dire che l'ultima cosa a cui ho pensato era la nebbia. Sì. Allora sai cosa facciamo? Domani cosa facciamo? Sera alle 9 andiamo a trovare Monica e così ci facciamo raccontare delle belle fole e magari tutti metti a San Giovanni nell'onda della nebbia. Puoi riconciliarti sul tema della nebbia, cioè io ti do occasione, anche perché domani sera si brinda, ci sono il pubblico, non è che solo degusta storie ma anche buon lambrusco. Io sarò quello che appena entra dice mi sono perso. Va bene, noi ti portiamo come indicatore due o tre bicchieri di vino e lì secondo me ti ritrovi, perché dentro al vino ci si ritrova. Poi le osterie sono un tema che corre dentro la serata anche nei racconti, perché le osterie erano un posto dove davvero, no, ci si ritrovava e ci si raccontava un po' la vita, non che solo perdevi il filo della vita dentro il vino, ma un po' si ritrovava quell'umanità in cui le storie piccole diventavano grandi e viceversa, il mondo piccolo di Guareschi, ma anche lì Guareschi, che tutti conosciamo per Don Camillo e Peppone, per le saghe che sono state tradotte nei film, passate alla televisione, al cinema. E invece qua è un Guareschi un po' inaspettato, dove dalla nebbia escono forse fantasmi, storie d'amore. È uno spettacolo strano questo, nel senso che si ride e un po' ci si commuove, perché poi la vita è contraddittoria, bisogna tenere dentro tutti i fili, quelli che ti fanno aprire la pancia e quelli invece che ti portano a una nostalgia acuta, ecco. Quindi bene, Monica, sicuramente sì. Sicuramente sì. Uno spettacolo da assaporare e respirare, perché poi la nebbia sì. C'ha anche quell'odore un po' particolare. Infatti mi hai fatto venire una voglia immane di venire a San Giovanni per Siceto. Venite, noi alziamo i calici con voi, ridiamo un po' e intrecciamo un po' di parole con alleati potenti. Zavattini, Guareschi. Fantastico, grazie, ci vediamo grazie domani al sera. Teatro allora. Dell'Orsa a domani. Ciao Monica. Grazie, a presto, grazie a tutti, buona serata. Ciao. Teatro dell'Orsa. Capito? La Bjork, che è un po' nebbiosa anche lei, se vogliamo, no? No, eh? È nebbiosa? Vabbè, un pochino... Questo pezzo sì, un po'... c'è un po' di foschia. Chi è Morgan? Volevo salutare, prima non ho fatto, tra l'elenco degli ascoltatori che saranno in ascolto, c'è la Valentina Zaffagnini, c'è la Elena Grossi, Chiara Del Bianco, immagino... insomma un sacco di gente, un sacco di... sì, Oh mamma mia, devo riprendere le com'è che si chiama, la tradizione della faccia al muro. No dai, che brutto, era delle prime due edizioni. Invece noi continuiamo con loro. Who is Morgan? L'angolo della menzione. Chi lo dice? Domenica 11. Giulio. Dico io? Vai. Domenica 11, ore 12:30. Per un pugno di lenticchie, camere d'aria, il primo evento annuncio dell'edizione 11 bis del Festival Internazionale della Zuppa 2017 è uno show cooking con Pasqualino Donnarumma, il Sette Porti e Sette Portate e Sora Pina alle Pignatte, e dopo lo show cooking Se Magna Insieme. Prenotazione obbligatoria al numero 328-66-29-343. Posti limitatissimi. E direi anche un po' di questi. Ma non facciamoci distrarre, continuiamo. Chi la legge la prossima? Morgan. Ci sono rimasto io. Abbiamo Nicola. C'è Nicola. La vuole leggere? Sì. Allora vieni a leggere qua. Devi leggere lì. La vedi? È abbastanza scritta in grande? Quello lì, giovedì 15. Giovedì 15. Ok, giovedì 15 alle ore 19. Una una questione di gusto. A via Viziani 8. A via Viziani 8, Bologna. Ciclizia. Ciclizia, amato. Ornato o amato? No, francamente. Ornato. Questo font non si capisce. Ornato ti aspetta nella sua residenza d'artista per un buffet di gioielli e suggestioni. Suggestioni. Porta il tuo stile, i tuoi amici e la tua voglia di indossare arte per esaltare la tua unicità. In fondo è una questione di gusto. Applausi alla grande. Grazie. E gli applausi continuano in sottofondo perché a grande sorpresa è con noi in esclusiva niente popò di meno che, niente coxo di meno che, Clizia Ornato. Che ciao a tutti. Eccola qui. Che l'abbiamo avuta come ospite. Ma certo che l'abbiamo avuto come ospite. Ma me la ricordo? Sì che te la ricordi. Per forza. Fantastico. Perché è una ragazza molto gna come ti piace, come quelle che piacciono a te. Inoltre è una stilista di gioielli. Lo dice la parola stessa. Guarda, un uomo nomen omen. Esatto. Donnen. No, effettivamente sta cosa qua, che tutto il latino sia di un maschilista spaventoso, è spaventoso. Anzi, devo rimproverare il Corriere della Sera, che sta uscendo tutti i giorni con un articolo più maschilista dell'altro. È veramente spaventoso. Fortuna, Clizia, che abbiamo un Pasquini che ci difende come genere. Che dici? Bene, lo ingioielleremo. Ah, perfetto. Sono lo stremo difensore della gnocca. Che dire della coxa funziona male, perché sì. Effettivamente. No, comunque Clizia, scherzi coxate a parte, quindi è un tuo nuovo evento. Sì, vi aspetto tutti giovedì per una nuova sorta di esibizione itinerante all'interno di quella che normalmente è la residenza d'artista, dove vivo, dove danzo, dove lavoro, dove creo i gioielli e dove appunto li vendo, e vi invito tutti a curiosare tra quelle che normalmente sono stanze di uso quotidiano, quindi la sala, la cucina, oltre ovviamente allo showroom più istituzionale, per invitarvi in una sorta di percorso itinerante che vi servirà delle sorprese legate appunto al tema dei gioielli e al tema del gusto personale, infatti, o condiviso. Una questione di gusto ha un senso anche... Ma dunque possiamo mangiarli? Mi sa che fa venire voglia di mangiarle, poi non lo so se siano commestibili. Vedremo, a vostra discrezione. Bene Clizia, ti ringraziamo per la partecipazione, ovviamente come tutti gli ospiti del Coxo sei invitata a tornare quando ti sarà più congeniale. Quando sarà un po' più caldo, quando... No. Certo. Perché già fa caldo qui volevamo dentro. Dire che il link al tuo evento naturalmente da domani sarà visibile su www.coxospaziale.blogspot.com. Ma che bravo, l'hai detto tutto anche tu. Grazie. E quindi... Congediamo Clizia, grazie mille. Grazie mille, grazie a voi, alla prossima. Buona serata, grazie. Ciao. Morgan ti saluta Yumi. No, dicevo che Morgan non si è accorto che Yumi l'ha salutato, perché appena ha sentito Bjork se n'è andato a fare un videogioco, per cui visto che ci sta ascoltando. Ma chi è Morgan? È un mio compagno di classe. E cosa vuole da te a quest'ora di notte? Andate a dormire, bambini. Ma se sta facendo matematica. I bambini maschi. mi sta cadendo il microfono addosso. No, dico. Adesso ti ha sentito, ti sta Morgan? Ascoltando. Morgan 333 180 94 94, per dire a Yumi che l'hai ascoltata. Puoi mandare un SMS o anche un WhatsApp, se sei collegato è pure gratis. Addirittura. E noi continuiamo con la 162esima puntata di Coxo Spaziale, oppure? Ti saluta Yumi. No. Si può anche fare con l'accento. Perché abbiamo un ospite della Madonna, capito? Cosa facciamo? Non lo ascoltiamo? Secondo me sarebbe anche ora. Sforeremo di una mezz'oretta, per farci stare dentro tutto il libro. Ho una a proposito di maschilismo, di misoginia, io per la prima volta eccezionalmente ho una canzone d'amore spaventosa che ho presentato con discreto successo lo scorso marzo in Romagna, perché a Bologna non mi vogliono suonare, in Romagna mi vogliono molto. Perché i romagnoli sono gente che sa riconoscere le cose vere. Sei vicino alla Toscana per i nostri gusti. Sì, ma sai com'è. Non lo so, non credo che sia un discorso geografico. Comunque non andiamo a approfondire per non... sarà colpa di Cerati, naturalmente. Una canzone d'amore, dicevo, a stopparlo, capito, con delle battute del Io stavo perdendomi a vedere cosa sta scrivendo Yumi. Ecco. Cosa sta scrivendo Yumi? Intanto io vado, faccio finta di avere la cuffia autonoma. Esatto, fai finta. Anche perché appunto il tempo stringe, il palinsesto è serratissimo, e dopo di noi abbiamo dobbiamo mettere anche vino, ricordiamoci. Appunto, dai. Allora, abbasso tutti i volumi dei microfoni tranne che quello dell'ospite. Faccio bene stavolta? Proviamo a fare così, a vedere se funziona. Una canzone che dice che quando c'è l'amore non ci sono distanze, non ci sono ostacoli, non ci sono distanze quando c'è l'amore. Salutiamo anche Lucrezia. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, beh, magari aspetto. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, al limite ci sentiamo su Skype. Coglierò i fiori sulla fascia di rispetto dell'asse attrezzato. Coglierò i fiori, guiderò con le ginocchia per poterli contare. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, beh, divento vecchio. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, al limite vieni qua tu. Comprerò i frutti del nostro disappunto sulla tangenziale. Comprerò i frutti con il bicarbonato per poterli lavare. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, beh, magari aspetto. Se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, al limite vieni qua tu. Grazie. Cominciano a essere un po' ripetitivi gli applausi, però no, ci stavano di brutto. Anche perché sennò io poi cominciavo a fare coxo spaziale speciale eccezionale. Vero, mi ero dimenticato. Io perché lei lo conosceva. Quindi era un'anticipazione che hai regalato a noi di questo. Cioè, alla fine è una sorta di implicita dichiarazione d'amore al coxo. Se vogliamo vederla così, altrimenti è un riciclo spudorato di una canzone. No, la voglio vedere come nella prima versione. Oh. Ecco, vabbè. Facciamo così. Sì. Manca vino, mettiamo vino subito. Perché... Ma non lo teniamo in chiusura? Ma perché? Scusa, quando puoi avere della musica, mettiamo... Va bene, ok. Vado? Vai. Bisognerebbe... alzare il volume? La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Il corpo umano è composto dal 60% di acqua, ma questo lo sapevate già. L'impulso nervoso può raggiungere una velocità di 360 km all'ora. Ora sapete a cosa sono dovuti i vostri scatti di collera. Un pelo pubico in trazione si allunga del 20-30% prima di spezzarsi e può sopportare anche 20-30% di peso senza rompersi. Vi consiglio comunque di non provarci mai. Una scoreggia può raggiungere una velocità di 20 km all'ora, ma certamente questa può variare a seconda della sua densità. Un uomo adulto può produrre anche 10 litri di sudore al giorno, Pasquini anche di più. Ogni goccia di sangue impiega 20 secondi per fare il giro del corpo umano, le mie molto meno quando penso alla bella Fedra. E l'8% delle caccole rimosse viene mangiato, essendo esse ricche di sodio, potassio, proteine, carboidrati e lipidi. Oggi ho voluto regalarvi un po' di conoscenza, ma c'è un vecchio proverbio secondo cui la conoscenza che non viene seguita dall'azione è peggio dell'ignoranza. Perché se tira a indovinare e non ci prendi, puoi sempre dire «Merda, gli dèi mi sono avversi». Ma se sai e non fai, vuol dire che in testa hai solo soffitte e anticamere buie da percorrere avanti e indietro senza meta. E questa non è mica una cosa sana. Produce serate noiose, un eccesso d'alcol e tante, tante sede. Ha detto che viene da un'altra regione, ma viene da un'altra nazione, scrive Giffo. Veneto libero, se la sposo me la riporto in patria. Anzi, in realtà la dovrei fare con un accento veneto. Se la sposo me la riporto in patria. Allora beccati questo. Spaventoso. Sono lo stalker di Roberta Giallo. Chi è? E Morgan. Voglio sapere com'è vestita mentre ascolto Croxo Spaziale. Cosa c'entra, scusa? Sono Roberta Giallo, questo è il jingle per il mio stalker. Sono vestita di grigio rosa e sto ascoltando Coxo Spaziale. No, c'entrava un po' così. Salutiamo anche Lucrezia. Che significa? We greet also Lucrezia. Lucrezia. We greet also Lucrezia. Ah ma col coxo di Pasquini si imparano le lingue. Saludamos también Lucrezia. Lucrezia. Lucrezia. Con la T un po' come la tua S. Come un po' come la mia F quando dico coxo spaziale. Comunque Zino mi piace sempre più ogni puntata. Bravo, però dice un po' di parolacce. Dovrebbe imparare a usare la cosa che coxo. In realtà è poco modesto, perché lui tipo il primo minuto era già 1:10, il secondo stavolta era 1:39. No, la prima volta era 2 minuti. Poi si è ridimensionato. Però queste comunque, parolacce. Quando vengo giù in Abruzzo gli tiro una gran bussata così. Sì, non mettigli bene più in testa sta cosa di dire coxo e declinazioni varie al posto delle parolacce. Vabbè, ma tanto lui lo mettiamo sempre su dopo le 9:30, dopo le 9:30. Ma adesso dopo le 9:30, sì. Lolli, so, tu che sai le cose. In Inghilterra alle 9:30. La fascia protetta sarà dopo le 11:00, i bambini ormai non vanno più a letto. Ma c'è questa cosa del palinsesto televisivo che dipende da lì, secondo me, la fascia protetta. Io però non lo so di preciso quando. Secondo me dalle 9:30-10. Ma guarda che è arrivato! Le 9:30. È arrivata la quadrupede. La Alina c'è. La Alina saltatrice. Eccola. Ciao Alina. Sarai wow, contenta che ci sono tutti sti Lolli e sti Pasquini in giro. Un bau in diretta. Bene, per cui sappiamo anche che dopo vi cuccherete e smetto quando voglio. Ma fantastico. Dopo. Eccolo, vieni a salutarci. Dopo. Ho capito. Sai che abbiamo Lolli. A quest'ora si può dire cazzo. Ma come? No, anche perché io l'ho detto prima molto tempo fa quando leggevo so, la cosa ma del mare. Stavi leggendo, sì. Quella era una citazione era, poetica, non si può, licenza poetica. Lui non parla, lei non abbaia. Creatività generica. Ci stava anche una vaga scaletta. Mi sembra di riconoscere la voce. Ero più giovane. Eri più giovane. E quando è che ci fai i nuovi jingle in linea con la tua maturità? Effettivamente. Quando ci troveremo con Farnedi, proviamo. Quando vi trovate con Farnedi? Domani l'altro, però forse è un po' presto, ma poi ci ritroveremo più volte. Io Farnedi da una vita che non lo vedo. L'ultima ma una volta che andiamo a trovare Lolli e Farnedi, anche noi due ci facciamo insieme a loro i jingle. Ah, sarebbe bellissimo. Sarebbe carinissimo. Sì. Magari potremmo anche sfruttare delle citazioni da Non aprite un virus. Comunque, una cosa che non abbiamo detto di Non aprite un virus negli ultimi 2 minuti che mi restano: vai. Che ci sono un sacco di prefazioni che sono molto belle, anche quelle sono un valore aggiunto. Me le sono lette tutte io. C'è Enrico Farnedi, Danilo Maso Masotti, Stefano W. Pasquini, Davide Pavlidis, Ivo Stefano Germano e Cira Ignis. Potrei leggere, siccome quindi abbiamo poco tempo, quello delle di 100 pagine, 50 ci sono di prefazioni. Volevo fare il libro con più prefazioni che libro, non ci sono riuscito, però ci ha dato una bella botta. Alla prossima. La prefazione di Cira Ignis, che è molto interessante. ormai la posso leggere, ma perché sì, avrei delle cose che avrei avuto piacere di leggere, ma non l'abbiamo fatto in tempo. La prefazione non è pagina in sé, è fuor d'essa, è essa de fuor, furente ed furibonda. Galante col garante, essa si nutre di traumaturgiche immagini ed il presente è vivo, è il suon di lei. Raccogliendo testi sotto costo, l'autore si intende disatteso nel momento stesso in cui il libro si libra ed il corriere corre non giungendo nemmeno alla propria dimora. Sapremmo come fare, ma perché rivelarlo? Ci fu mai detto qualcosa noi? E allora? Nell'anno del truogolo i maiali si imbaldanziscono e a noi non resta che seguire le tortuose evoluzioni delle collinari vie che ci apparvero di adolescenziale immago, seguendo passo passo l'artigian che scevro di fatture nell'opera quotidiana ogni ora eccelle, respirando neri scarichi, scalando la seconda. Accogliate benemerite codeste parole che sgorgano da un dove che dov'è. Evacuate in azione ragionata, nella postura ritenuta più consona al transito. Cotidie coltivando flora, fauna e cemento per scongiurar feci frazionate. Sappiate però che taluni accovacciamenti, vogliatevi portatori di disabilità cinestetica, rendono ardua la lettura. Forse un tablet. Vogliate fidelizzarvi senza timore. Tesseratti inconsapevoli in dimensione 4, ipercubi ed ipersfere, sezioni auree prossime alla scadenza, abbandonando i padiglioni ad un suon di lui. Siete il domani del mai, ed è bello se lo sai. E questa di Cira Cira Ignis, però, non era una prefazione. Era l'ultima delle prefazioni. Però c'è scritto che è un'introduzione. Sì, hai una copia, no? È una copia diversa quella lì, nel senso che. Ho la copia speciale. Hai la copia speciale limitata. Ma non dovevi farmela così a tradimento, che mi stanno male i capelli. Te l'ho già fatta. No, è comunque, che avevamo un documento. Cominciamo a salutare che siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Sì, no, tantissimo. Infatti, anche perché poi dopo ci sarà questa trasmissione sulle vecchie guardie della radio. Ma detta così. Non mi ricordo come si chiama. Tu te lo ricordi? No, noi ci mettiamo sempre 3 anni a capire. Appunto, siamo spaventosi. A parte con le scine, che dalla prima puntata sapevo benissimo realtà, come si chiamavano, nome, cognome, tutte quante. Ma è il motivo per cui abbiamo accettato di fare il programma, farti conoscere le scene. A proposito, sì. Quando è che facciamo la puntata anche con loro? Comunque niente, Riccardo, grazie a voi per essere tornato e per prometterci di ritornare il prima mercoledì possibile. Tornerò sicuramente, forse vengo a dar fastidio a Masotti quando verrà a presentare il suo libro. Non si chiamano più scene. E poi stiamo tentando tutte le carte io sto facendo carte false per chiedere a Lolli se vuol fare una trasmissione qua. Tu e lui e basta? No, lui e basta. Io e basta. Lui e basta. Poi di notte, quando i portoni sono chiusi, la nebbia è fitta. No, sarebbe Lolli radiofonico è una gran coxata. Però poi mi inviti? La registro a caso, se vuoi venire quando la registro, volentieri. E con questa io direi che la 162esima puntata di Coxo Spaziale chiude sforando. Salutiamo tutti i Lolli. Ciao. Tutti i Pasquini. Ciao. E tutti quelli che ci hanno ascoltato e che anche non sono né Lolli né Pasquini. Va bene. E anche dei Lolli e dei Pasquini. Tirami su l'autoradio. Ti tiro sull'autoradio. No, non quello, non è l'autoradio. Ah, hai ragione, questa è l'autoradio.